a dispetto di quanto, in ogni amplificazione artificiosa, dipende dai vari punti di vista soggettivi di cui dovrò parlare, resta il fatto che tutte queste figure hanno una qualche realtà oggettiva e, di conseguenza, differiscono in qualche misura l'una dall'altra. D'altronde, come potrebbe essere altrimenti? L'umanità che frequentiamo e che assomiglia così poco ai nostri sogni è pur sempre la stessa che abbiamo visto descritta nelle memorie, nelle lettere di persone notevoli, la stessa che abbiamo sognato di conoscere. Il più insignificante vegliardo con il quale pranziamo è lo stesso la cui fiera lettera al principe Federico Carlo abbiamo letto con emozione in un libro sulla guerra del 70. A pranzo ci annoiamo perché l'immaginazione è assente, mentre con un libro, poiché essa ci sta al fianco, ci divertiamo. Ma è sempre delle stesse persone che si tratta. Ci piacerebbe aver conosciuto Madame de Pompadour che protesse così efficacemente le arti, eppure in sua compagnia ci saremmo annoiati tanto quanto in compagnia delle moderne egerie, dalle quali non abbiamo il coraggio di ritornare, a tal punto sono mediocri. Sta di fatto, comunque, che le differenze esistono. Le persone non sono mai esattamente uguali l'una all'altra. Il loro modo di comportarsi nei nostri confronti tradisce, a parità si potrebbe dire d'amicizia, differenze che in fin dei conti si compensano. Quando conobbi Madame de Montmorency, si compiacque di dirmi delle cose sgradevoli, ma poi, se avevo bisogno di un favore, metteva in gioco per ottenermelo tutto il prestigio di cui godeva, senza risparmio e con rara efficacia. Mentre qualcun'altra, come Madame de Guermantes, non avrebbe mai fatto nulla che potesse addolorarmi, diceva di me esclusivamente ciò che poteva farmi piacere, mi colmava di tutte le cortesie che formavano il ricco repertorio morale dei Guermantes, ma se, al di fuori di quest'ambito, le avessi chiesto una minima cosa, non avrebbe mosso un dito per procurarmela, come in quei castelli dove si ha proprio a disposizione un'automobile, un cameriere, ma è impossibile ottenere un bicchiere di sidro non previsto dal programma dei festeggiamenti. Quale delle due era per me la vera amica? Madame de Montmorency, così felice di ferirmi e sempre pronta ad aiutarmi, o Madame de Guermantes, capace di soffrire di ogni mio minimo dispiacere e incapace del minimo sforzo per essermi utile? Si diceva, d'altra parte, che la duchessa di Guermantes parlasse solo di frivolezze e sua cugina, intelligenza quanto mai mediocre, di cose sempre interessanti. Le forme di intelligenza sono così svariate, così opposte, non soltanto in letteratura, ma anche nella società, che non spetta ai soli Baudelaire o Mérimée il diritto di disprezzarsi reciprocamente. Queste particolarità compongono, in tutte le persone, un sistema di sguardi, di discorsi, di azioni talmente coerente e dispotico che, quando ci ritroviamo in loro presenza, ci sembra superiore a qualsiasi altra cosa. Madame de Guermantes mi dava l'impressione che le sue parole, dedotte come un teorema dal suo genere di intelligenza, fossero le sole che si potessero pronunciare. Ed ero fondamentalmente d'accordo con lei quando mi diceva che Madame de Montmorency era stupida e che la sua mente era aperta a tutte le cose che non capiva. Oppure quando, venuta a conoscenza di una sua cattiveria, mi rinfacciava: «E questa per voi sarebbe una brava donna? Per me è un mostro!» Ma questa tirannia della realtà che ci sta davanti, questa evidenza della luce della lampada che fa impallidire l'aurora, già remota come un semplice ricordo, svanivano quando ero lontano da Madame de Guermantes e un'altra dama, mettendosi sul mio stesso piano e giudicando la duchessa molto al di sotto di noi, mi diceva: «Oriane, in fondo, non si interessa a niente e a nessuno». E addirittura ciò che, in presenza di Madame de Guermantes, sarebbe apparso incredibile da quanto lei proclamava il contrario, Oriane Snob. Poiché nessuna matematica ci consente di trasformare Madame d'Arpajon e Madame de Montpensier in quantità omogenee, mi sarebbe stato impossibile rispondere a chi m'avesse chiesto quale, fra le due, mi sembrasse superiore all'altra. Ora, fra i caratteri distintivi del salotto della principessa di Guermantes, i più abitualmente citati erano un esclusivismo dovuto, in parte, alla nascita reale della principessa e più ancora il rigorismo quasi fossile dei pregiudizi aristocratici del principe, pregiudizi di cui, d'altronde, il duca e la duchessa non avevano esitato a farsi beffe davanti a me, e proprio quel rigorismo doveva, naturalmente, farmi ritenere tanto più inverosimile la semplice idea d'essere invitato da un uomo per il quale contavano soltanto le altezze e i duchi, e che in occasione di ogni pranzo faceva una scenata perché, a tavola, non gli si era assegnato il posto cui avrebbe avuto diritto sotto Luigi XIV e che lui solo, peraltro, grazie alla sua straordinaria erudizione in campo storico e genealogico, sapeva quale fosse. Per questa ragione, molte persone del gran mondo risolvevano a favore del duca e della duchessa le differenze che li distinguevano dai cugini. Il duca e la duchessa sono molto più moderni, molto più intelligenti, non si occupano, come quegli altri, solo del numero dei quarti. Il loro salotto è in anticipo di 300 anni su quello del cugino. Queste le frasi ricorrenti il cui ricordo, adesso, mentre guardavo quel biglietto d'invito, mi faceva rabbrividire attribuendo maggiore plausibilità all'ipotesi che ad inviarmelo fosse stato un mistificatore. Se il duca e la duchessa di Guermantes non fossero stati a Cannes, avrei potuto almeno cercare di sapere da loro se l'invito che avevo ricevuto era autentico. Il dubbio in cui mi dibattevo non era neanche, come per un istante avevo sperato, un sentimento che un uomo di mondo non avrebbe potuto provare e che, di conseguenza, uno scrittore, sia pure appartenente, oltre a ciò, alla casta delle persone di mondo, si sarebbe dovuto sforzare di riprodurre per essere davvero oggettivo e dipingere ciascuna classe in modo differente. In effetti, ho trovato di recente, in un affascinante volume di memorie, la registrazione di incertezze analoghe a quelle suscitate in me dal biglietto d'invito della principessa. Georges ed io, o Elie ed io, non ho sotto mano il libro per poter verificare, ci struggevamo a tal punto d'essere ammessi nel salotto di Madame de Lesseur che, avendo ricevuto un suo invito, ritenemmo prudente assicurarci, ciascuno per proprio conto, di non essere vittime di qualche pesce d'aprile. Ora, il narratore, altri non è che il conte d'Ossonville, quello che sposò la figlia del duca di Broglie, e l'altro giovane che, per proprio conto, va ad assicurarsi di non essere lo zimbello di un mistificatore, è, a seconda che si chiami Georges o Elie, l'uno o l'altro dei due inseparabili amici del signor d'Ossonville, il signor d'Harcourt o il principe di Chalet. Il giorno in cui doveva aver luogo la serata in casa della principessa di Guermantes, venne a sapere che il duca e la duchessa erano tornati, sin dal giorno prima, a Parigi, e decisi di recarmi da lei la mattina stessa, se non che, usciti di buon'ora, non erano ancora rientrati. In un primo momento spiai l'arrivo della carrozza da una stanzetta che mi sembrava un buon posto di guardia. In realtà avevo scelto malissimo il mio osservatorio, dal quale intravedevo a malapena il nostro cortile. In compenso ne scorgevo parecchi altri, il che, senza essermi utile, mi offrì un breve divertimento. Non solo a Venezia esistono questi punti di vista su più case contemporaneamente che tanto hanno attratto i pittori. Ce ne sono anche a Parigi. Non a caso ho parlato di Venezia. È ai suoi quartieri poveri che fanno pensare certi quartieri poveri di Parigi al mattino, con i loro alti camini svasati che il sole tinge dei rosa più vivaci, dei rossi più tenui, e tutto un giardino che fiorisce al di sopra delle case e con sfumature così variegate che lo si direbbe, piantato sulla città, il giardino di un amatore di tulipani di Delft o di Harlem. D'altra parte, l'estrema vicinanza delle case fa di ognuna delle loro finestre che si fronteggiano su uno stesso cortile la cornice di un quadro. Qui una cuoca guarda in basso immersa in fantasticherie. Un po' più in là una fanciulla si fa pettinare da una vecchia il cui volto, appena affiorante dall'ombra, sembra quello di una strega. E così ogni cortile offre al vicino della casa accanto, sopprimendo qualsiasi rumore con la distanza, esibendo i gesti silenziosi in un rettangolo messo sotto vetro dalle finestre chiuse, una mostra di 100 quadri olandesi giustapposti. Certo, da Palazzo Guermant non si schiudevano vedute del genere, ma qualcuna curiosa sì, soprattutto dallo strano punto trigonometrico in cui mi ero installato e donde lo sguardo non incontrava ostacoli sino alle lontane alture formate, poiché i terreni relativamente poco edificati che lo precedevano erano in forte pendenza, dal palazzo della principessa di Silistra e della marchesa di Plassac, nobilissime cugine del signor di Guermant che io non conoscevo. Fino a quel palazzo, di proprietà del padre, il signor di Bréguigny, nient'altro che edifici poco elevati, orientati nei modi più diversi, che con i loro piani obliqui prolungavano la distanza senza precludere la visuale. La torretta di tegole rosse della rimessa che dava riparo alle carrozze del marchese di Frécourt culminava, è vero, con un'aguglia più alta, ma così sottile che non nascondeva niente e faceva pensare a quelle belle costruzioni antiche che in Svizzera si slanciano isolate ai piedi di una montagna. Tutti quei punti, vaghi e divergenti, su cui si riposava lo sguardo, facevano sembrare più lontano che se in mezzo ci fossero state parecchie strade o numerosi contrafforti, il palazzo di Madame de Plassac, in realtà abbastanza vicino, ma chimericamente remoto come un paesaggio alpestre. Quando le sue grandi finestre quadrate, abbagliate di sole come lamine di cristallo di rocca, erano aperte per le pulizie, si provava, osservando ai vari piani lacchè che, non distinguibili l'uno dall'altro, battevano i tappeti, lo stesso piacere che scaturisce dal vedere, in un paesaggio di Tarner o di Elstir, un viaggiatore in diligenza o una guida a differenti quote d'altitudine del San Gottardo. Ma da quel mio primo punto di vista avrei corso il rischio di non vedere rientrare Guermant. E così, quando nel pomeriggio fui libero di riprendere l'appostamento, mi misi semplicemente sulle scale, da dove l'aprirsi della porta carraia non poteva sfuggirmi. E lì rimasi, benché non potessi più scorgere le alpestri, sfavillanti bellezze del palazzo Bréguigny, con i lacchè indaffarati e miniaturizzati dalla lontananza. Ora, quell'attesa sulle scale doveva avere per me conseguenze così notevoli e rivelarmi un paesaggio non più tarneriano ma morale così importante che è opportuno differirne di poco il racconto facendolo precedere da quello della mia visita a Guermant quando, alla fine, seppi che erano rientrati. Fu solo il duca a ricevermi nella sua biblioteca. Mentre vi entravo, ne uscì un ometto dai capelli completamente bianchi, d'aspetto dimesso, con una cravattina nera come ne portavano il notaio di Combré e parecchi amici di mio nonno, ma più timido nel portamento, il quale mi riverì cerimoniosamente e non volle assolutamente scendere prima che io fossi passato. Il duca, dalla biblioteca, gli gridò qualcosa che non capì, e lui rispose con nuovi inchini indirizzati al muro, giacché il duca non poteva vederlo, e tuttavia ripetuti all'infinito, come gli inutili sorrisi che ci si scambia quando si parla al telefono. Aveva una voce in falsetto e mi rinnovò il suo saluto con l'umiltà di un uomo d'affari, e poteva essere in effetti un uomo d'affari di Combré, tanto aveva il tratto provinciale, antiquato e dolce della piccola gente, dei modesti vecchi di laggiù.